Disco veramente notevole questo di Davide Bertolomei insieme a Emanuele Magni, che tra l'altro è, potremmo così dire scherzosamente, il boss, anche se un po' un termine che è passato, dell'etichetta Grotta Record, molto interessante per quanto riguarda lavori appunto non soltanto sul drone, ma sulla ambient nel senso più generale del termine, dentro appunto Futuri Rumori, molto orgoglioso insomma di passare materiale di questa qualità. E beh, abbiamo ascoltato le Chat et sa raison, e quindi il gatto evocato e la ragione, e forse anche qua il gatto con tutto quell'immaginario onirico che ovviamente si porta dietro, anche misterioso, e la ragione come opposto quasi, oppure come forse faccenda che si va a intersecare in maniera appunto anche alla lontana appunto con questo Remote, disco veramente decisamente ispirato, anche evocativo di paesaggi sonori molto espansi, quindi che lasciano liberare sia la fantasia che anche appunto una fisicità che si espande appunto, e quasi a perdersi appunto. Questo è uno delle caratteristiche forti anche di questo Remote di appunto Davide Bertolomei e Emanuele Magni, che tra l'altro salutiamo e invitiamo tra le altre a mandarci anche ulteriori materiali. Insomma, nell'estate cercheremo di raccogliere materiali per la prossima stagione, se ci sarà, perché insomma bisogna sempre, come dire, essere cauti di Futuri Rumori. Insomma, ovviamente faremo di tutto perché ci sia, siamo pronti a immolarci proprio, e quindi insomma dentro poi faccende che musicali trattate o che sapete che trattano amici, conoscenti, insomma mandateci materiale attraverso appunto il blog, la mail del blog di Futuri Rumori, per appunto essere insomma mandati in onda da queste parti, e lasciando, ma non del tutto, Davide Bertolomei, Emanuele Magni, Ultrafallus, progetto belga anch'esso mosso da tanti spettri e da un immaginario decisamente legato ai fantasmi sonori, anche di certo noise rock che si va a impattare con lentezze, con pesantezze anche del suono, lo sludge, come viene definito rock, questo rock swansiano, potremmo dire, hanno inventato loro per molti aspetti, forse ancora più rallentato, quasi da una fisicità diventa talmente pesante da diventare quasi appunto altro, e quindi anche fuoriuscire dalla stessa fisicità materica appunto di un suono duro e di un suono metallico, che però appunto trattandolo in questa maniera diventa quasi una forma di astrazione, se non fosse insomma per appunto spettri che attraversano le varie faccende di questo progetto Ultrafallus belga, come vi dicevo prima. Tra l'altro uno dei pezzi che inseriremo, Eva Ionesco, va a trattare un tema decisamente delicato, quello Eva Ionesco diventò famosa negli anni 70 perché bambina, fotografata dalla madre in posizione che adesso probabilmente definiremmo pedofile, forse negli anni 70 non furono considerate tali, anche se poi ci fu addirittura un processo appunto per le nudità mostrate dalla madre appunto di Eva Ionesco, della figlia. Trovate insomma le foto ovviamente su internet, anche perché c'è stata una condanna sì da parte della corte rispetto alla alla madre, ma le foto comunque sono state considerate comunque comunque foto artistiche, quindi diffuse, e questa diffusione tuttora è visibile appunto attraverso internet o cataloghi eccetera, e vanno a trattare appunto questa faccenda in maniera così anche provocatoria probabilmente per alcuni aspetti. Non è un caso che il pezzo che andiamo a prendere da questo The Art of Spectre, tra l'altro insomma ispirato ovviamente, ha già ispirato questo titolo di 451 spettri sonori di questa sera, Sinister Exaggerator, che è un pezzo storico dei Residents, qua in una chiave appunto sludge, decisamente rallentata e decisamente mostrificata, già di fatto insomma il pezzo dei Residents non era un pezzo che evocava immagini particolarmente serene, qua c'è un ulteriore accanimento rispetto a materiale già decisamente freak, decisamente mostruoso e mostrificato appunto in trattamenti ulteriori, altre stratificazioni tra l'altro che provengono dai tanti ascolti di Ultra Fallus, e anche le stratificazioni sonore appunto che riescono a creare in questo The Art of Spectre. Ci andiamo appunto a sentire sia Eva Ionesco e Sinister Exaggerator, cover della storica band e pezzo eccezionale appunto di Residents, che per tanti versi regge anche appunto così il paragone anche forte rispetto ai grandi californiani. Thank you. Abbiamo ascoltato i terrificanti ultra fallus, terrificanti nel senso che lo vogliono essere, quindi c'è proprio una ricerca di questa terribilità, fatemi passare così il termine astruso, e appunto in questo suono terrificante, terribile che viene creato in queste atmosfere che sembrano quasi emaciate, no? Portandoci verso dei mondi spettrali, ma fate sì di faccende piuttosto morbose nel loro essere, così sludge, così rallentate, così appunto quasi una sorta di via crucis del cantato, del suono che cerca insomma di costruirsi appunto rallentandosi, quasi in una sorta di implosione, anche che sia in alcuni momenti di questo Art of Spectre da parte di Ultra Fallus, giovane formazione belga, e tra l'altro insisto su questo essere belga non per motivi calcistici ovviamente, ma perché stampano per l'etichetta storica della Sub Rosa, arrivano finalmente dopo vari lavori più o meno editati, ecco, in così potremmo dire, visto insomma la trasmissione quasi in una sorta di clandestinità appunto fantasmagorica, no? Che e poi per certi versi non è soltanto affascinante ma anche molto faticosa, ecco, dell'underground, però appunto approdano alla Sub Rosa, storica etichetta sicuramente è tra le corde anche in termini di ascolto per quanto riguarda Ultra Fallus, perché sicuramente avranno a che fare con tra l'altro uno dei padri fondatori appunto di Sub Rosa, progetto degli anni 70, tornato così con registrazioni recuperate proprio qualche mese fa da parte della Sub Rosa, formazione quindi che vedeva la NEF, storico poi di Ben Gesserit, formazione incredibile, progetto di Cold Wave Industrial, tra le più veramente allucinate degli anni 80, Daniel Malampré e Francis Purcell, e il fondatore appunto, come dicevo prima, accennavo, di Sub Rosa, ovvero Guy Mark Inant, che si rincontrerà tra l'altro poco dopo con la NEF, proprio nello splendido progetto di musiche sperimentali espanse, molto vicine a certo industrial, che si svilupperà anche in maniera piuttosto articolata e particolare appunto in terra belga. La Sub Rosa, tra l'altro, con belle ristampe sta facendo uscire, ovvero il progetto di Pseudo Code, ma non solo è quel progetto, ci sono state veramente faccende molto interessanti nel appunto in terra belga negli anni 80. E poi Paul Kuzner, lo dico un po', o Kuzner forse, forse non legato insomma direttamente alla terra belga, quindi francofona, e un collettivo che ha visto passare anche altri personaggi oltre appunto ai già famosi, famosi ovviamente in termini di notorietà underground, di Guy Mark Inant, Alan Neff e gli altri citati. Cosa che insomma ha decisamente portato in terra belga quello che è un suono freeform a tutti gli effetti, con tanto appunto di riferimento già Cosmos, e dice, la dice lunga sui riferimenti Deutschland appunto, che avevano in termini anche di immaginare ma anche di sonorità, che però si vanno a dileguare queste cosmicità dentro appunto un suono free rock veramente sui generis, è anche molto interessante. Andiamo appunto a trattare, continuando quindi tra Sub Rosa e quindi Ultra Fallus appena approdati, e invece storicissimi della Sub Rosa, ma anche storicissimi appunto di un noise rock free in termini molto larghi, di Cosmose, progetto appunto così riesumato anche in maniera nobile appunto qualche mese fa dalla succitata appunto etichetta belga. Ci andiamo appunto ad ascoltare un passaggio appunto per creare questo fil rouge decisamente belga, decisamente Sub Rosa. Thank you. spettri sonori che si aggirano dentro il rock, quello più libero ovviamente di Cosmos degli anni 70, formazione che per tanti anni insomma è stata mitizzata, poi finalmente sono usciti un po' di materiale appunto su questo doppio disco Cosmic Music from the Black Country. Beh, il titolo lo dice già lunga, sì, un cosmo virato appunto in una sorta di Dark Star, sempre per citare immaginare decisamente Psyche, che appunto andava a impattare in terra belga con oscurità e spettralità di vario tipo, e tra l'altro anche musicali, una sorta di zappismo coniugato al cosmico e alle psichedelie in generale, oltre che appunto un senso decisamente espanso del carattere rock che comunque connotava i Cosmos, ma in termini appunto decisamente larghi, decisamente appunto interessanti, come tra l'altro sta succedendo proprio in questi anni di scoperta e riscoperta di formazioni o di progetti che venivano considerati minori, poi altro che minori per lo sviluppo musicale che appunto hanno tuttora molte musiche noise e di quelle che vogliamo chiamare insomma alternative, ma a volte anche con vaghezze, distanze appunto antagoniste, ovviamente appunto è quasi un ossimoro a distanza antagonistica, seppur con Ultra Fallus ad esempio se è andato un po' a trovare quel momento. E per concludere, come tra l'altro abbiamo iniziato un altro 451 frammenti sonori, concludiamo appunto con Stone Breath, progetto che avevo detto avremmo rimesso rispetto appunto alla trattazione di un paio di settimane fa, Lanterna Lucis Viriditatis, disco straordinario, soprattutto con una The Lantern Over Greening Light veramente strepitosa, e per abbandono psichedelico e per questo senso nebbioso del folk e delle materie appunto trattate veramente come una sorta di black country, e qua forse un rimando anche appunto alle epopee varie, non solo di Cosmos ma di altri, sorta di alchimisti sonori o addirittura anche di vocazioni di maghi, quindi evocanti spettralità di vario tipo, ovviamente stiamo parlando di spettralità sonore che vanno di pari passo a colpire o addirittura a creare un immaginario anche molto denso, se non fosse appunto per questa nebbia che ci fa perdere appunto dentro il suono, in questo caso quello di Stone Breath, ma quello di questa sera di 451 in generale, 451 spettri sonori. Vi rimando a mercoledì prossimo per l'ultima puntata, perlomeno per quanto riguarda frammenti sonori, al prossimo chiaramente invece intersezioni, 451 intersezioni, e poi appunto per probabilmente un incrocio di una sinergia, chiamiamola così, di forze che chiuderà insomma la stagione probabilmente appunto tra me ed Eliseo. Quello che vi sta parlando ancora per pochissimi istanti è Max Macchia, ringrazio che è stato all'ascolto, anche chi mi ha fatto compagnia negli studi di Radio Città Fujiko, mi rimando appunto al blog curato da Lorenzo Albano, ho detto tutto. Stone Breath, lanciatemi in questo suono decisamente lancinante. The lantern of the greening light. falls down upon my body still. Sew my shroud with silver thread. Place orchids round my deathbed. When you light the candles round my grave and round my body cold, then raise the red steel above your head. Chant with God upon your breath.